Ragazzi, nar nar nar nar tra Radio Roma è tornata. Questa è la mia trasmissione. Ragazzi, il gigante non è nessuno. Ma proprio nessuno. Che tempo non è. Bastardi. Buonanotte a tutti. E buonanotte a tutti. Buonanotte a Gasolino. Buonanotte a DJ Brutto. Buonanotte DJ Dogo. Buonanotte a nessuno. Buonanotte a tutti. E buonanotte al cazzo. Mamma, esco! Dove vai? In Cambogia! Quando torni? Che palle! Non lo so, devo sparire per un po', forse qualche anno! E papà lo sa? Che palle! Papà! E c'è! Io vado in Cambogia! Che ci vai a fare in Cambogia? E vado a fumare il crack! Nicolò! Dimmi la verità, lo sai che papà non devi nascondere nulla? Va bene, te lo dico. Pratica, ieri sera ho ammazzato uno sbirro e adesso devo sparire per un po' fino a quando non si sono calmate le acque. Va bene, almeno uscendo porti fuori la spazzatura? Ma che palle, ma le devo sempre fare io queste cose qua. Io sono solo un bambino e voi mi caricate di tutte queste responsabilità. Io non voglio più stare qua perché mi faccio... Fermo, polizia! Fermo, non ti muovere, polizia! Ciao, ciao! Questa è un'altra Radio Roma. Questo è Kogot. E questo è... ROP! Rock oggi per voi su un'altra Radio Roma. Mr. Kogot vi guiderà in un viaggio distorto, improvvisato, post-rock. Per voi, prime due tracce da Modena, Kill, Jesus Kill, con la traccia Single Service Friend e a seguire Believe in What. Noi crediamo in un'altra Radio Roma. Un'altra Radio Roma. Roma. Roma! We'll be right back. Direttamente da Milano loro sono Verme, direttamente da Indie Italia, qui a Nartra Radio Roma. Con il pezzo Ossimoro, tratto dall'album Un Verme Resta Un Verme. Qui per voi a Nartra Radio Roma, DJ Cocot oggi vi trasporta attraverso un po' di rock, post-rock, psycho-rock, impro-rock, avant-rock, rock e rock a Nartra Radio Roma. Roma, Roma, Roma. Nartra Radio Nartra. Buon ascolto con Nartra. Music. Buon ascolto con Music. Buon ascolto con Music. Roma Nartra Radio Roma. Roma Nartra Radio Roma. Roma Nartra Radio Roma. Yeah. è questo qua? È pare giusto. Questo ragazzo si modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, Garbatec, Garbatec, Garbatec, Garbatec, Garbatec, Garbatec, Garbatec, Garbatec, Garbatec, Garbatec, Garbatec, Garbatec, Garbatec, Garbatec, Garbatec, Garbatec, Garbatec, Garbatec, Garbatec, Garbatec, Garbatec, Garbatec, Garbatec, Garbatec, Garbatec, Garbatec, Garbatec, Garbatec, Garbatec, Garbatec, eccoci qua cari amici, fratelli e questa è una radio ad Ostia. Siamo tutti pazzi e non sentiamo cazzi. Tutti pazzi e non sentiamo cazzi. Cazzi, cazzi, cazzi, cazzi, cazzi, cazzi, cazzi, cazzi, cazzi, cazzi, cazzi, cazzi, cazzi, cazzi, cazzi, cazzi, cazzi, cazzi, cazzi, cazzi. Che ne pensate? Buongiorno a tutti, cari amici, io sono Remo Remotti e vi parlo da un'altra Radio Roma, già se ne stanno 12, questa è la 13ª. Però questa è Ostia e vale doppio. Voi siete sempre i meglio. Pochi dovete diventare molti ascoltatori di Remo Remotti di un'altra Radio Roma. E buonanotte al cazzo. Grazie, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai. Ringraziamo ancora una volta Remo Remotti per aver citato la sua voce per questo jingle per Nartra Radio Roma. Lui Roma de Roma, noi Nartra Radio Roma di Nartra Radio Roma. Mr. Cocotte vi ha presentato prima di questo jingle un altro pezzo di rock, più sul math rock, direttamente dalla Lost Children Net Label. Loro erano i Downshape francesi e il loro pezzo The Bitter Intimacy. Continuiamo ancora con un po' di rock, un po' psycho rock. Il prossimo brano è di uno studente inglese che per contattarlo potete usare il suo MySpace o Free Music Archive. Metà del suo divertimento è dare i nomi alle sue tracce, l'altra metà mettiamocela noi ad ascoltare i suoni delle sue composizioni. Questa è Carelessly Dressed e lui è Home, H-O-M, direttamente su Radio Roma. We'll be right back. Dopo Home dall'Inghilterra, passiamo a Torino, con un altro gruppo molto interessante, sempre preso da Indie Italia. Un altro gruppo autoprodotto, loro sono i Mumble al Cubo, dal loro album Mumble, Mumble, Mumble, tre pezzi per voi, intitolati semplicemente P3, P4, P2. Do It Yourself is the Way, Mumble al Cubo, da Torino, qui a Nartra Radio Roma. Metro, Radio Roma. Mumble al Cubo, passiamo a un altro trio, pazzo lo stesso, ma direttamente dal sud, da Catania. Loro sono una miscela di post-punk noise passando tra echi e melodie e momenti di relax post-space rock che vengono bruscamente interrotti da inserti jazz noise. Insomma, chitarre, basso, batteria, percussioni varie e tastierine per far male ai timpani. Naturalmente loro sono tre, si chiamano Trioclit, da Catania, e questa è A.A.A. Anelo avventure anali. Anali. Anelo avventure anali. Anelo avventure anali. Sempre in terra di Sicilia, ci spostiamo da Catania per arrivare in un paesino vicino a Siracusa. Qui troviamo la Megafono Aperto Studio Recordings. Già lo conoscete perché ve l'ho fatto già sentire con una traccia in qualche diretta o in qualche altro podcast. Lui, il creatore della Megafono Aperto Studio Recordings, è un bel pazzerello e con i suoi amici creano, attraverso la chanson de Roland, alcune tracce veramente psycho. Qui a Nartra Radio Roma diamo la possibilità alla chanson de Roland di esprimersi. Il loro pezzo? Porno, qui a Nartra Radio Roma. La radio che fa radio. Radio radio fa radio. Che fa radio. Radio radio radio che fa radio. Radio radio radio che fa radio. Che fa radio. Thank you. non ho voluto intromettermi tra il primo brano che abbiamo ascoltato della chanson di Rolande e quest'altro pezzo, di ben 9 minuti e 38. Un pezzo spaziale, dei Vespero, direttamente dal sud della Russia, esattamente da Astrakhan, con il pezzo Crabs Ashore, loro scoperti ultimamente su Free Music Archive. Ve l'ho presentati qui a Nartra Radio Roma. Spero vi siano piaciuti e che non vi abbiano distorto non poco la vita. Ed ora, ancora, ed è ancora, e un'altra volta ancora, direttamente dalla Sicilia, da Palermo, un altro gruppo preso direttamente da Indie Italia. Loro sono i Jonestown e questo pezzo è Contaminated, direttamente dal loro demo di 3 tracce, Welcome to Jonestown. Loro sono di Palermo e con l'occasione voglio salutare un'altra radio che manda solamente musica Creative Commons, che sono i ragazzi di Radio Ballarò. Con l'occasione salutiamo anche The Open Radio, anche loro siciliani, dove penso quest'altro mese ricominceremo a mandare i nostri vecchi podcast su The Open Radio. Comunque, stay tuned, vi faremo sapere notizie a riguardo. Sempre Creative Commons, sempre autoproduzione, e ad ora Contaminated. Loro sono i Jonestown a Nartra Radio Roma. Buon ascolto, buon ascolto, buon ascolto, viaggio, buon viaggio. Ultra noise. Buon viaggio, viaggio. Distorsione noise. Nartra Radio Roma. Bentornati su un'altra Radio Roma da Mr. Cogot. Ora per voi, ultimi 3 pezzi di questo podcast numero 53 targato Nartra Radio Roma. Vi ricordo il nostro sito www.nartraradioroma.blogspot.com. Solo musica Creative Commons e autoproduzione. Vi ricordo inoltre che potete trovarci sia su MySpace, su SoundCloud, su Mille Mics, su Facebook, ovunque voi vogliate trovarci, potete trovarci. Ho qui nelle mie mani un CD, si chiama Ovalta, e i loro creatori sono i Fasti, direttamente da Torino. Mi sono fatto mandare il CD da Torino a Roma attraverso i contatti che avevo da MySpace e i contatti che avevo con il cantante su Facebook. Il loro album è stato prodotto nel 2009 e qui, dopo la mia voce, vi farò sentire 2 brani, esattamente Il primo Natale in famiglia, traccia numero 8, e Nara, traccia numero 5. Il loro è un post-rock molto particolare. E come ultimo brano di questo podcast, in onore di un gruppo che già vi ho mandato in altri podcast, sto parlando di Il Triceratopo, di Como, voglio mandare un'ultima traccia che si chiama Guerre Stellari. Nartra Radio Roma, in onore del ragazzo che è scomparso poco tempo fa, amico dei Triceratopo, per voi Nartra Radio Roma. L'ultimo pezzo dei Triceratopo è per Gib. Buon viaggio con Nartra Radio Roma. Il culo schiacciato su un morbido divano, un bicchiere di vino in mano, chiacchiero, mi guardo intorno e poi addormento. e anestetizzo muscoli, anestetizzo tendini, anestetizzo ossa e anestetizzo qualcos'altro. Questa è una possibilità. Oppure tirare fuori la mano pelosa e fottere tutti per riempire il proprio uovo di Pasqua. Questa è un'altra possibilità. Ma quando ti ascolti e senti che per te c'è un altro modo di fare, un altro modo di stare, un altro modo per sentire e un altro modo per riempirti, allora ti butti giù dalla collina e rotoli. Irriverente rotoli e irriverente ridi. E ridi al re e ridi ai suoi giullari. Perché lo sappiamo che ci hanno fatto credere di essere liberi quando ci occupiamo di cazzate e intanto omologano i sogni, i bisogni, i pensieri. Li trasformano in prodotti e li sistemano sugli scaffali dei centri commerciali. Ma i mercanti si svegliano di continuo e non sanno il perché. Ma prima o poi, tutto scoppia come una bolla di sapone. Organizzazione. Deve muoversi, che deve impegnarsi, che non può lasciare in mano a questi stupidi il suo destino. Cosicché adesso che gliel'ho detto, si muova. E se lei sta cercando il soggetto storico, è facile, sono io il soggetto storico. Cosicché si muova, si impegni, faccia qualcosa, non rimanga a piangere in un angolo. Lei pensa che a un'azione corrisponda sempre una reazione, ma non sempre è così. Un popolo lo puoi picchiare e picchiare senza limiti, cioè lo picchi fino a che non scompare. Immagina per esempio che un tipo ti prende a bastonate e tu dici si stancherà. Niente affatto, quello va a casa, mangia, dorme bene, si rinfresca e continua a darti più bastonate. E tu ogni volta più debole. E tu ogni volta più debole. Vedi bene che non si può misurare tutto con l'azione e reazione. Per esempio i Coya prima ripresero a bastonate gli Incas e quelli non fecero niente. Poi arrivarono i colonizzatori e neppure allora successe niente. Quindi le rivoluzioni dei visi pallidi gli rovinarono la vita e neppure allora fecero nulla. Così fino ad arrivare ad oggi. Così fino ad arrivare ad oggi. Così fino ad arrivare ad oggi. Stellari, giornate intere a litigare come cani. E non capivo perché e ne discutavamo. Si addormentava poi mentre lo guardavamo. Io con gli amici giocavo a guerre stellari e con le spade di legno saltavano i molari. Poi siamo cresciuti, ci siamo persi, ce ne siamo andati. Qualcuno ha preso astronavi verso altri stati. Mia madre non guardava mai guerre stellari. Diceva in questo genere i film sono tutti uguali. Mi immaginavo avvocato di quelli seri. Io che sognavo di essere un cavaliere Jedi. Un cavaliere Jedi. cose sono cambiate adesso. Ogni sconfitta mi ha reso diverso. E lo spirito Jedi non mi appartiene. Ora vorrei essere Darth Vader. Vorrei essere Darth Vader. Vorrei essere Darth Vader. Che poi è cambiato quello che sento. Se tornassi bambino in questo momento, mentre cade ogni cosa che mi sostiene, io vorrei essere Darth Vader. Vorrei essere Darth Vader. Vorrei essere Darth Vader. Vorrei essere Darth Vader. Vorrei essere Darth Vader. Sogno un vicino alieno, maestri o pazzi nani, da pianeti lontani e spade laser vendute scontate nei supermercati, androidi educati, mille un falcon, portami via, che questa terra io non la sento più mia, la realtà è che la forza mi ha da tempo lasciato, la realtà ha liberato il lato oscuro che è in me. Cose sono cambiate adesso, di sconfitta mi ha reso diverso. E lo spirito Jedi non mi appartiene. Ora vorrei essere Darth Vader. Vorrei essere Darth Vader. Vorrei essere Darth Vader. Che poi è cambiato quello che sento. Se tornassi bambino in questo momento, mentre cade ogni cosa che mi sostiene, io vorrei essere Darth Vader. Vorrei essere Darth Vader. Vorrei essere Darth Vader. Vorrei essere Darth Vader. Vorrei essere Darth Vader. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-tra Radio Roma. Roma. Un'altra radio. Roma. Radio. Radio. Radio. Un'altra radio. Roma.